24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Mi è impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani. L'ha capita? Farò un master in bersanese. Cari italiani, eccoci qua, sono le 6:33 minuti, sentite che voce squillante nonostante l'imbarcata. C'è una roba pazzesca ieri, imbarsata più che imbarcata, un disastro. C'è Peter Bescapè, l'alpino, qua ha ammainato le bandiere del Milan. Qua. C'è Miriam Lucchetti che non gliene frega niente, anzi è arrivata stamattina, mi ha guardato con quella faccia, fammi vedere un po' che faccia c'hai, dopo le quattro pappine che ti hanno rifilato ieri. E vabbè, è così, dai, su, apriamo il nostro barlamento, subito, non si può parlare anche di calcio, Forza gente, a correre dal Parlamento. Abbiamo barman generosi come Santa Claus. Li paghiamo noi e con quello che paghiamo voglio bere tanto da tornare storto come il dottor House. Allora, non so, Paola Saluzzi, buongiorno. Ma buongiorno, ma ritirate su immediatamente le bandiere del Milan. Ma insomma, ma vostro amico in Barcellona qualunque a farvi perdere il buon umore. Senti qua, canta. Ma no, ma non canto, non sono tifoso del Milan, però su via, or bene or su. E va poi dietro ogni sconfitta si nasconde una futura grande vittoria. Ma non dire minchiate, su! Ma cosa stai dicendo? Un disastro! Vabbè, insomma. Coraggio, buongiorno comunque. Su. Saluto Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Buongiorno, direttore. Buongiorno, Tu sei tifoso di qualcosa? Sei appassionato di calcio? Vabbè, io sono interista, sì, però vabbè. Devo dire mi spiace. Sì, vabbè, ma ciao. Allora, visto che mi hanno detto già tutto, allora tutti che mi twittano, vorrei leggere oggi, sentiamo come leggerà il titolo della Gazzetta. Allora, questo è il rumore che fa la Gazzetta, avvicina al microfono. Prendete la Gazzetta, oggi fate così. Beh, vabbè, ma adesso siamo sul distruttivo, no, ma insomma. Questo è il titolo della Gazzetta di oggi, non ho finito. Eccolo qua, questa è la Gazzetta di oggi, però, per sostenere l'editoria, Luca Dini, sempre certo, per sostenere le vendite dei giornali. Vabbè, parliamo di... vi voglio subito far sentire una cosa. Io Crozza ieri non l'ho visto, ovviamente, perché stavo guardando una tragedia ben peggiore. Però ieri fumata nera al conclave, ma sentite lo straordinario Crozza. Oggi è iniziato il conclave, c'è già stata la prima fumata nera, molto nera, ma erano i dossier, è la prima volta, è la prima cosa che hanno bruciato. Dunque, comunque, qualcuno dice che sarà un conclave breve, perché padre Georg giovedì a squash. Ci sono già i favoriti, naturalmente, ci sono già i favoriti. Un favorito è l'americano Dolan, e poi c'è il brasiliano Odilio Pedro Scherer de Tupelé. Pensa che bello, no ragazzi, sarebbe bellissimo, un papa brasiliano, te lo immagini un prata brasiliano? Un papa sao amigo Pedro che viene do Mato Grosso, incredibile amico, un papa sao. Oh, mio amico Pedro, abemus papa. Vabbè, dai, Luca non si offenderà comunque... nessuno, no? No, è straordinario Maurizio Crozza sul papa brasileiro, effettivamente, de Tupelé. Vabbè, però non lo so, sul conclave che dobbiamo dire, ma c'è ancora questo fascino, Dini, c'è ancora questo fascino di seguire il conclave? Secondo te un po' si è perso dopo che dopo tanti anni c'era Papa Wojtyła, si attendeva quello di Papa Ratzinger, adesso... Secondo me è una cosa tutta di noi giornalisti, francamente, in questo momento, cioè, sì. poi diventerà importante quando sarà scelto, però l'attesa in questo momento è più nostra, io ho questa sensazione. Cioè, vabbè, per carità, un po' montate dai giornali. Sì, un pochino sì. Voi Paola Saluzzi cosa fate? Cioè, dirette ma sul comignolo? Io vi parlo prima ancora che da un punto di vista di informazione, vi parlo da romana. E a Roma intesa come Piazza San Pietro e dintorni, c'è un'attesa febbrile, un po' perché veramente il Papa è fondamentalmente romano, pur se fosse Pelé. Il vescovo di Roma, voglio dire. È il vescovo di Roma, no? Ed è molto sentita qui la cosa, ma proprio con un fare, ecco, decisamente calcistico. Non solo, non voglio offendere nessuno. Però l'attesa è grande, forte, c'è molta emozione, perché comunque il Papa che arriva con un Papa che è vivente, e quindi non c'è stato il funerale di mezzo, non c'è stato il dolore del funerale, insomma è un misto di emozioni. Noi a livello di lavoro attaccati su quel comigno, non attaccati, lì di fronte, tutti lì a guardare. Oggi faremo per esempio nel pomeriggio una larghissima parte dedicata a tutta le direttone, comunque Luca, avranno prima il Papa, verrà prima il Papa che il governo, questo mi sembra i tempi millenari della Chiesa, altro che tempi millenari, quelli in 448 mi sa che fanno. Dai giornali dicono che Scola sia in testa, anzi addirittura oggi c'è Carlo Marroni, il vaticanista del Sole 24 Ore, che dice: se prende altri voti questa mattina e cresce, non è neanche escluso che ci possa essere fumata bianca in giornata con il Cardinale Scola eletto Papa. Vabbè, ve la do come indiscrezione. Volete fare il vostro pronostico? Dai, io tanto l'ho detto, per me è il Cardinale Tagle. Luca Dini, il nuovo Papa sarà? Per me Dola, l'americano. Dola? No, ma dai, l'americano, quello che gli hanno chiesto diventerà Papa, e lui ha risposto: ma voi avete fumato marijuana, ai giornalisti. O ha anche detto: non vedo l'ora di tornare a New York perché sto finendo i calzini. Questo sarebbe Papa Dolan, vabbè. E Paola Saluzzi, tu Papa? Io vi mantengo sull'Italia, Scola Lavasi. Scola Oravasi, vabbè, la tradizionalista Saluzzi. Ma no, perché Scola è una persona meravigliosa. Ma lo conosci? Lo conosci? Ci sei andato a cena? Ho avuto modo di incontrarlo quando era patriarca di Venezia. Ah, bene. E quindi gli ho fatto un'intervista a suo tempo. E Monsignor Ravasi, nonostante sia il Cardinale Ravasi, rimane Monsignor Ravasi, è una persona che tutti conosciamo. Solo tradizionalista, ebbene sì, spalanco la finestra e butto giù, insomma, come dire, stendo il tricolore, e poi vedremo che Papa sarà. Ma pensavo buttassi giù il Papa, no? Ma no, che ne so, apro la finestra. Butto giù gli altri. Milan, dopo la partita del Milan, mi è diventato più acido. Sono diventato acido. La palla è rotonda, si tornerà a vincere. Guarda, si tornerà a vincere. Basta. Ma dai, ma ci sarà un prossimo anno, ma chi se ne importa? Ma avanti, sì, insomma, si vince, si perde, chi se ne frega. Allora, la notizia che danno sui giornali sulla questione politica è questa, e vorrei capire se secondo voi c'è uno spazio per questo tipo di, non so, non chiamarlo inciuccio, no, però i pontieri del PD sono all'opera. Allora, pare che ci possa essere uno spiraglio, un grimaldello in qualche modo, per fare un accordo tra il PD e i grillini. Allora, Luca Dini, questo governo si farà così? Cioè l'unico modo è questo, se no va tutto a catafascio? A me sembra di sì, francamente. Non vedo tante alternative. Non ci sono alternative, ma questi grillini non lo vogliono fare, io non lo so. Poi dopo, noi oggi avremo ospite, tra l'altro alle 8:15, Marta Grande, esponente del Movimento 5 Stelle, si vocifera come possibile presidente della Camera, perché una Camera potrebbe andare, la Camera dei Deputati, come presidenza del Movimento 5 Stelle. Ecco, per esempio, tu ci vedi qualcosa di scandaloso in questo? Si dice, beh, ma non sono abituati a gestire il potere, oppure è giusto che li si provi anche così? Diamogli una Camera, diamogli il Senato, diamogli le istituzioni. Ma io, come ho detto, non ho paura di questa cosa, non capisco francamente lo scandalo rispetto a un Parlamento passato dove la metà delle persone era entrata in lista bloccata, e cioè, voglio dire, che garanzie avevamo delle capacità di quelli che c'erano prima, francamente. Quindi sei un po' della teoria, cioè il salto nel buio, ma il passato che cos'era? Un disastro, quindi insomma, perché non provare questa novità? Comunque io ritengo che c'è, non mi sembra che ci sia una scuola di formazione per presidenti della Camera, non lo so, se Paola Saluzzi a Roma c'è anche una scuola di formazione di presidente della Camera, no, cosa potrebbe non fare? Non lo so, però se parliamo di politica lì mi voglio aprire la finestra, però dicevamo poco fa, sempre ovviamente per stendere la bandiera. mettiamola così. No, non credo che serva una scuola di politica, credo che serva una scuola di buon senso. Le cose si imparano in fretta, se si è arrivati alfabetizzati, come dire, sapendo leggere e scrivere ad una elezione, si presume che le regole e i modi per gestire la cosa politica si impareranno in poco tempo. No, ma infatti non chiamano scandalismo. L'importante è la coscienza, ecco, la coscienza politica, quella credo che non la vendano da nessuna parte. E in una fase come questa la si dovrebbe apprendere in tempi molto, ma molto, ma molto, ribadisco, molto brevi. Cioè, datevi una mossa, datevi una mossa. Di Roma poco fa. Sì, datevi una mossa. Ma sì, ma ci sono i tempi istituzionali. Quando è che si insediano le Camere? Venerdì. Poi inizieranno venerdì, le consultazioni settimana prossima. Le consultazioni, quanto ci metto? Due, tre, quattro giorni, due, sì, tre ma giorni. Ma è la voglia, Alessandro, la voglia dentro. La voglia di dire andiamo a salvare questo paese, salviamolo. No, no, infatti. Fate presto, cioè lì. Muovetevi. Fate presto. Mi ricorda un titolo di recente, fate presto. Appunto, grazie a voi. No, tra l'altro, allora, oggi il Partito Democratico e su tutti i giornali per questo dossier quanto ci costa, il dossier Renzi, pare che ci sia, ma Luca Dini, ma ti pare normale che Renzi possa aver fatto questo, commissionato questo dossier sulle spese pazze del Partito Democratico? O Rosi Bindi che è presidente del partito, ha tre segretarie che guadagnano dai 1.600 ai 1.900 euro al mese, il portavoce e un collaboratore pagato dalla vicepresidenza della Camera, e poi tutti così, tre dirigenti, segretarie. Volete sapere quanto guadagna Chiara Geloni? La conoscete, Chiara Geloni? La conosci, Luca Dini? Ne hai mai visto? Direttrice di UDEM. 6.000 euro netti al mese. Fa un'intervista a Repubblica e dice: lo stipendio di un giornalista. Ma come lo stipendio di un giornalista? 6.000 euro al mese, ma magari. Luca Dini, quanti guadagnano 6.000 euro netti al mese a Vanity Fair? Forza, fai. Pochissimi. Pochi. Uno a caso. Paola Saluzzi, questi giornalisti a frotte di 6.000 euro al mese. I giornalisti ormai sono una massa di precari, di giovani disoccupati. Questa è la categoria. Detto così sembra una massa di miliardari. Sì, no, è un po' 6.000 euro al mese. Chiara Celone, vabbè. Insomma, ci sono, da una parte mi viene da pensare che in queste spese così sulle quali Renzi sta indagando o chiedendo notizie, ovviamente ci siano altrettanti posti di lavoro, quindi per carità, cosa molto saggia e molto, molto buona, fornire posti di lavoro. Bisogna vedere poi con quali soldi vengano pagati, ecco, allora su quello... Vabbè, sono soldi... Beh, è chiaro, sono soldi, c'è il finanziamento ai partiti, sì... torniamo lì, c'è il finanziamento ai partiti... E come li pagano, quei soldi che prendono? Infatti, c'è questa cosa, perché secondo te, direttore, Bersani non dice il finanziamento ai partiti va cancellato? Non sarebbe un gesto eclatante, una mossa un po' davvero innovativa? Beh, sarebbe sicuramente un gesto eclatante, una mossa innovativa, però sarebbe anche una... Credo che lui la vivrebbe come una... Insomma, cedere a un ricatto in questo momento, a una pressione. Poi alla fine io penso che succederà, ma il fatto che il PD fosse un carrozzone, come tutti i grandi vecchi partiti... Cioè, è abbastanza chiaro. No, ma è abbastanza chiaro. Queste sono le spese, mentre invece sui giornali fanno sapere che Beppe Grillo, in realtà il Movimento 5 Stelle, ha uno statuto, è stato firmato, perché sennò non potevano concorrere alle elezioni, è stato firmato da un notaio a Cogoleto, e la novità è questa, che Beppe Grillo è presidente e vicepresidente del Movimento 5 Stelle è suo nipote commercialista, mentre Casaleggio non ha cariche. Ecco, oggi i giornali danno questa come grande novità. Mi chiedono ancora qual è il titolo della Gazzetta, non lo so, non leggo bene. Oluveite, non lo riesco a leggere il titolo della Gazzetta. 24 mattino. Pronto? Sono Charlie, volevo dirvi che non se ne può più con queste tasse, solo tasse. C'è da pagare tasse, utenze tasse, gas tasse, bollette tasse, condominio tasse, solo tasse, tasse, tasse, tasse. Sono straniero, però sono diventato italiano dell'anno scorso. Anche io sono convinto che la classe politica italiana è da mandare a casa. Ma lo sai perché non compro più Topolino in edicola? I fumetti me li godo ogni giorno vedendo e ascoltando i nostri politici. Berlusconi, secondo me, è gamba di legno. Ogni volta che viene scoperto, nel Topolino successivo è di nuovo libero. Maroni in macchia nera, che a volte è alleato di gamba di legno, ma quando può gli fa le scarpe. La banda Bassotti sono i vari Fiorito, Formigoni. E qui qua, ma sono Fini, Rutelli e Casini. Bersani e Vendola invece sono Topolino e Pippo, Monti e Paverone e Grillo, ma è quel pazzo di Paperoga. Ora tu, Mila, mi dirai che mi sono scordato di Paperino. Ma no, Paperino siamo tutti noi italiani, poveracci, tartassati, presi in giro. E Walt Disney ovviamente è napoletano. Grillo è il capo dei Notav e dice giustamente che per poter fare le grandi opere pubbliche si devono sentire le popolazioni interessate. Questo è giustissimo, ma Grillo non dice quali siano le popolazioni interessate da interpellare. Gli abitanti della Val di Susa, nel caso della TAV, gli abitanti dell'Italia del Nord, gli italiani tutti, gli europei, boh, mistero, e nessuno gli chiede spiegazioni. Un'altra cosa incredibile. Vabbè, questa è la nostra segreteria telefonica, poi ci sarà il numero di telefono, lo sentirete in chiusura se volete lasciare i vostri messaggi. Siamo con il direttore di Vanity Fair Luca Dini e con Paola Saluzzi di Sky TG24 Pomeriggio. Di che parlerai oggi, Saluzzi? Diccelo subito. Oggi politica nella prima parte, nella serie ce la faranno i nostri eroi, riusciranno. E tre parti dedicate al conclave. Eccolo, perché lì, se Dio vuole, a mezzogiorno c'è un'altra fumata. E se fosse bianca? Appunto, ma abbiamo Papa. Chi lo sa, chi lo sa. Insomma, sarebbe una allora è successo questo durante il traffico, durante la segreteria. Miriam Lucchetti entrata in studio, caro direttore Luca Dini, detto: fammi controllare un po' qual è la prima di Vanity Fair, prima che fai altre cazzate. Cioè, insomma, vediamo un po' chi c'è in prima di Vanity Fair. Allora devi dire questo, poi devi dire: io non dico niente. Comunque c'è Rachel Weisz. Chi è Luca Dini? Dai, dillo tu, perché io non, dopo l'ultima esibizione non dico nulla. È un'attrice, l'attrice del grande potente Oggi e moglie di Daniel Craig. Perfetto. Io avrei subito sbagliato film citando ovviamente un film. Però io devo dire, io sono sempre un po' strano, vado a cercare degli articoli che colpiscono solo me. E ne segnalo uno che non perderò assolutamente. Voi parlate della fiction, credo che arriverà, su Walter Bonatti. Ho divorato il libro K2, quello in cui Bonatti raccontava la conquista, che è un po' la conquista che è diventata anche la diatriba che si è protratta per decenni, no? Su cosa sia successo nella spedizione di Ardito Desio per conquistare il K2. Voi raccontate questa storia perché, Luca? Abbiamo intervistato Rossana Podestà, la compagna di Bonatti, che ricorda appunto dell'ossessione, della grandissima ferita di Walter, che non è riuscito, diciamo, a riprendere a vivere fino a quando la verità è stata ristabilita dal CAI. E lei racconta che la prima volta che l'ha visto, insomma, sorridere al telefono come quel giorno in cui gli hanno detto: abbiamo accettato la tua verità. Insomma, perché parliamoci chiaro, lo abbandonarono, so che è una parola brutta, ma lo abbandonarono a poche centinaia di metri dalla conquista, col rischio proprio che lui morisse, no? Abbandonato in un bivacco. Esatto, e poi lo accusavano di aver rubato le bombole, di aver boicottato, insomma, di aver abbandonato il portatore pakistano, e invece fece un bivacco notturno a quote altissime in cui sopravvisse per miracolo. Ma d'altronde, insomma, storie un po' di montagna ce ne sono tante, no? Che poi si sono protratte nelle polemiche. E poi questa cosa, così la diamo alla Saluzzi, dalla parte dei papà. Quando è la festa del papà? Io manco lo so. 19 marzo, San Giuseppe. 19, esatto. Vabbè, io sono proprio un cane in queste cose. Perché dalla parte dei papà? C'è il diritto dei papà di essere papà? Una delle storie è questa, sì. C'è stata una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo su questo, che condanna lo Stato italiano per non aver permesso a tanti padri di decidere i loro figli come i tribunali avevano stabilito. Hai capito, Paola? Hai capito? Voi donne, è una ferita ancora aperta nel nostro paese. Voi donne, una ferita ancora aperta. Ma io su questo, Alessandro, sai, forse parlo con tanta coscienza perché non sono mamma, però sono una tifosa dei figli. Dei figli dei miei amici, quando vedo che i miei amici si separano, e molto spesso c'è questa tendenza un po' bieca a considerare i figli, e dico una cosa impopolare rispetto a tante altre donne che viceversa soffrono situazioni terribili e che mi hanno dalla loro, ma ci sono molte donne che considerano i figli degli assegni circolari, e trovo questa cosa vergognosa, e quindi comincia questo tira e molla su quante volte te li faccio vedere o quante volte te li faccio incontrare, che fa un po' paura, non soltanto nel nostro paese ma in giro per il mondo. Allora, visto che i nomi sono questi, per concludere, abbiamo detto Cardinale Dolan per Luca Dini, sarà Papa. Io ho detto Tagle, il filippino, fai conto te. Oppure Scola e Ravasi per la tradizionalista Paola Saluzzi. Tra l'altro ieri Crozza ha parlato anche del Cardinale Scola, sentite. Il più favorito di tutti è il Cardinale Scola, pare che abbia già 50 voti assicurati. Per convincere anche gli altri, il Cardinale ha già presentato un programma di 8 punti. I principali sono dimezzamento dei cardinali, abolizione delle diocesi, campanili fotovoltaici, 1 milione di chirichetti, restituzione della questua. Questo sarà il tuo papa, Paola Saluzzi. I campanili fotovoltaici no, è straordinario. Chissà, Intanto vi ringrazio, Paola Saluzzi e Luca Dini. Buona giornata a voi. Ci ritroviamo presto. E allora andiamo al giornale radio delle 7. Segnatevi il numero della segreteria telefonica. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua alle 7:21 minuti. Siamo pronti a leggere i giornali. Quasi tutti li leggeremo, tranne uno, i titoli. Lo dico subito. E allora, cari ascoltatori, le 7:21 minuti. Intanto vi ricordo che avremo ospite oggi alle 8:15 l'onorevole neodeputata del Movimento 5 Stelle Marta Grande, che viene indicata da qualcuno come possibile anche nuovo presidente della Camera, se una Camera andrà al Movimento 5 Stelle. Poi parleremo della vicenda dei Marò, un po' tenuta sotto traccia, ma in realtà importante, si presta ad alcune considerazioni. Marò italiani che rimarranno in Italia. L'India ora reclama gran voce, devono tornare in India, dove sono accusati di aver ucciso due pescatori. Avete violato tutti i patti. L'Italia invece, forte del diritto, dice è l'India che ha violato i patti, e dunque c'è una controversia in corso e noi li teniamo qui per il momento. Comunque la pensiate, alle 8:30 ne parleremo, ora andiamo a sfogliare i giornali in edicola. Mercoledì 13 marzo, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre su un tema molto caldo in Italia, anche oggi è il secondo giorno. Credito, la stretta costa 37 miliardi per Visco, governatore di Banca Italia, le banche sostengano le azioni innovative. E poi tutti gli altri quotidiani più o meno sulla politica o sul conclave. La politica è stato l'incontro della delegazione del PDL con Giorgio Napolitano. Il titolo del Corriere della Sera, il richiamo di Napolitano, garantire la partecipazione politica di Berlusconi. Repubblica, giustizia, l'alta di Napolitano a Berlusconi e magistrati. La Stampa, giudice e PDL, i richiami del Colle. Il Fatto Quotidiano, Berlusconi spaventa Napolitano. Il Giornale, un titolo molto forte per questo appellativo, Napolitano ferma i PM killer, così scrive il quotidiano di Sallusti. L'Unità, l'alto là di Napolitano al PDL. Il Manifesto, la tela del ragno, e c'è la foto di Napolitano preoccupato quanto Berlusconi per le prossime sentenze di Milano, scrive il Manifesto. Il Secolo XIX, Napolitano e PM, tregua su Berlusconi. Libero invece la mette sulla questione politica, Grillo PD, aria d'inciuccio. Il Messaggero invece sul conclave, fumata nera, giochi aperti, così come era presumibilmente atteso Avvenire, che mette come titolo l'attesa, i cardinali in conclave, la prima fumata è nera. Allora, a proposito di politica, è il momento anche dei dossier che fanno arrabbiare il Partito Democratico, l'ultimo dossier che era stato preannunciato due giorni fa dal Corriere della Sera sui costi interni del Partito Democratico, ieri poi è stato pubblicato tutto con nome e cognome anche dal sito Dago Spia, era stato già anticipato anche dal sito del Sole24ore.com, i costi del Partito Democratico. Ed ecco allora che il Partito Democratico si è arrabbiato, ma anche querelato, credo, il partito, sì, Dago Spia. PD, quanto ci costi veleni e querele sul dossier Renzi, così viene definito perché viene considerato un dossier voluto da Renzi. E Edoardo Di Blasio, ho letto il titolo sul Fatto Quotidiano, pagina 4, eccolo qua, tutto l'elenco del segretario Bersani, quanto guadagna il suo capo della segreteria, i quattro segretari, il portavoce, l'ufficio stampa, il vice capo ufficio stampa, oppure c'è Letta che ha due collaboratori e quattro segretari che guadagnano dai 1.500 ai 4.000 euro, la presidente Rosi Bindi ha tre segretarie da 1.600 a 1.900 euro al mese, un portavoce e un collaboratore pagato dalla vicepresidenza della Camera, e così il tesoriere Misiani ha una dirigente sotto di lui che guadagna 5.000 euro al mese a tempo determinato, due segretarie a tra 1.800 e 2.000 al mese e tre amministrativi, e così via. Insomma, c'è tutto l'elenco dei dirigenti, responsabile economico Stefano Fassina, che guadagna 3.500 euro al mese a tempo determinato, ma adesso è onorevole, ci sono anche i suoi collaboratori da 2.500 e 3.000 euro al mese. Allora, il tesoriere del PD Antonio Misiani si è molto arrabbiato, ha detto: non è un dossier ma è una patacca inaccettabile, una squallida operazione per colpire persone che lavorano. Tra le persone che lavorano ha colpito molto anche lo stipendio di Chiara Geloni. Chiara Geloni è direttrice di UDEM, la TV del partito, e guadagna attorno ai 6.000 euro netti al mese, al che, insomma, Repubblica la intervista. L'intervista la trovate a pagina 19, Giovanna Casadio. Titolo di Chiara Geloni che mi colpisce molto: il mio stipendio è quello di un giornalista. Come se non sapesse che la categoria dei giornalisti, ora certo c'è chi guadagna 6.000 euro netti al mese, ma no, visto perché ci dicono una casta, sì, saremo una casta come tutti, come gli architetti, gli ingegneri, gli avvocati, i politici, tutti, siamo un mondo di caste, i notai, ma 6.000 euro netti al mese, ma nella casta dei giornalisti c'è una pletora abbastanza diffusa di persone che lavorano con contratti molto precari, e c'è una sacca di disoccupazione non indifferente. Quindi leggere 6.000 euro netti al mese come un giornalista di Chiara Geloni forse dà l'idea di un distacco un po' dalla realtà. Comunque Chiara Geloni dice: la modalità mi fa rimanere male. C'è un modo, non ho idea di come nasca questo dossier, qualsiasi dirigente democratico può sapere i costi del bilancio del partito che sono online. Sì, ma tu quanto guadagni? Chiede Repubblica. Al netto nella mia busta paga un po' meno di 6.000 euro. Uno stipendio alto, ma ho lasciato il lavoro a tempo indeterminato che avevo prima, ho accettato un contratto a termine legato alle vicende della politica perché faccio il direttore. Ho chiesto uno stipendio un po' più alto di quello di prima, di vice direttore a tempo indeterminato di un giornale, credo sia nella media paragonabile alle remunerazioni di altri colleghi giornalisti. Sì, quali altri? Pochissimi, aggiungo io, di pochi altri colleghi giornalisti. Comunque, il dossier sui costi del Partito Democratico, mentre ha fatto molto notizia, scalpore dal punto di vista giornalistico, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, il fatto che è venuto fuori come ci sia lo statuto firmato davanti a un notaio di Cogoleto del Movimento 5 Stelle, anche perché senza questa costituzione di uno statuto non avrebbero potuto partecipare alle elezioni. Però, visto che è sempre detto il movimento quello del non statuto, in realtà il non statuto c'è uno statuto firmato dal notaio, con qualche sorpresa raccontano i giornali. Ecco l'atto costitutivo: presidente del Movimento 5 Stelle è Beppe Grillo, il vicepresidente è suo nipote commercialista, tanto che il giornale attacca con Stefano Zurlo a pagina 6 la democrazia in stile Grillo, lui è il capo e suo nipote è il vice. A sorpresa, la vera sorpresa però della notizia è questa, che Casaleggio, considerato da molti il guru dietro a Beppe Grillo e del Movimento, non è negli atti costitutivi, non ha alcuna carica. Movimento 5 Stelle, ecco l'atto costitutivo, Casaleggio non compare ma c'è il nipote di Beppe, così titola anche il Messaggero, così anche il Fatto Quotidiano. Movimento 5 Stelle, c'è lo statuto, Beppe Grillo presidente, il non partito con un non statuto ha un atto costitutivo e un regolamento depositato a Cogoleto il 18 dicembre scorso, 10 giorni dopo l'annuncio di dimissione di Mario Monti. Uno scandalo, grida l'Italia intera dei partiti che finalmente può dire di avere la sua rivincita, mentre dai ranghi del Movimento 5 Stelle lo stupore è molto più limitato. Era logico, era l'unica condizione per potersi candidare. Comunque anche il Corriere della Sera mette questa notizia con ampio risalto, la vicenda dello statuto di Beppe Grillo, lo trovate a pagina 11, il vice è nipote del leader presidente, appunto Grillo Beppe, e vicepresidente è invece il nipote commercialista Grillo Enrico di Beppe Grillo. L'assenza invece del nome di Gian Roberto Casaleggio, certo, stupisce molti giornalisti. 24 mattino. Eccoci qui, allora, sono le 7:36 minuti, non siete scomparsi, siamo sempre pronti a leggere, a continuare la lettura dei giornali. Tuffiamoci allora in quelle che sono le notizie politiche del giorno. E certo, molti quotidiani aprono con che cosa? Col fatto che ieri una delegazione di deputati del Popolo della Libertà, con il segretario Alfano in testa, sono andati e sono stati ricevuti al Quirinale da Giorgio Napolitano. Il tema è sempre quello, lo scontro tra magistratura e politica, i processi a Silvio Berlusconi, dopo che due giorni fa c'è stata anche la manifestazione senza precedenti dei politici appunto davanti al Tribunale di Milano. Che cosa è emerso da questo incontro? Beh, come racconta Dino Pesole a pagina 9 del Sole 24 Ore, c'è un'allarmante spirale politica giudici. Questo è il titolo che trovate ed è il richiamo netto di Giorgio Napolitano, che giunge al termine di una giornata di incontri al Quirinale, prima con la delegazione del PDL, poi in serata con il comitato di presidenza del CSM, vale a dire l'organo di autogoverno dei magistrati. Il momento, osserva Napolitano, è estremamente delicato per effetto dell'esito delle elezioni del 24 febbraio, soprattutto per gli adempimenti istituzionali che stanno venendo a scadenza, come l'imminente designazione del suo successore, le elezioni di presidente di Camera e Senato, la formazione del governo. Insomma, questa nuova, durissima contrapposizione tra politica e magistratura, sfociata lunedì nella clamorosa manifestazione inscenata dal PDL davanti al Tribunale di Milano, impone l'immediato ripristino, quantomeno di condizioni di un civile confronto. Questa è la posizione di Napolitano, che in qualche modo viene riassunta da alcuni giornali, ha fatto un doppio richiamo sia alla magistratura sia al Popolo della Libertà. Il richiamo ai giudici, scrive Pesole, è quello di non attribuirsi missioni improprie, ad osservare con scrupolo i principi del giusto processo, con particolare riguardo alle garanzie da riconoscere alla difesa. Si registra una nuova allarmante spirale di polemiche tra voci che si levano dall'uno e dall'altro campo. E quindi, ha detto Napolitano, bisogna garantire anche la partecipazione politica di Berlusconi. Dall'altra parte, dice Napolitano, è stata sbagliata questa manifestazione del Popolo della Libertà, di un centinaio di deputati, manifestazioni precedenti sulla quale il presidente ha espresso il suo vivo rammarico. Insomma, un richiamo alle parti, vista la situazione anche difficile, la situazione complicata, la situazione, il passaggio istituzionale delicato, a dire abbassate un po' tutti i toni. Giusto garantire a Berlusconi la partecipazione alla vita politica, questo è il titolo del Corriere della Sera a pagina 8, ma Napolitano si dice rammaricato per il corteo del Popolo della Libertà e richiama alla rispetto reciproco. Sono interessanti ovviamente i retroscena, perché questa è la cronaca di quello che è andato in onda politicamente ieri. I retroscena sono un paio. Beh, intanto Paola Di Caro a pagina 9 del Corriere della Sera racconta in qualche modo la soddisfazione del Cavaliere. Un primo e molto importante risultato è stato ottenuto, erano usciti soddisfatti Alfano, Cicchitto, Gasparri dall'incontro col Capo dello Stato ieri sera. Il presidente sembra convenire con noi che non è ammissibile accanirsi contro Berlusconi. Questa è un po' la posizione del Popolo della Libertà. È un Berlusconi che viene dato da una parte per abbastanza soddisfatto. Sul giornale, per la verità, viene data una soddisfazione cauta. In un altro retroscena firma ad Alberto Signore a pagina 3. Perché, scrive il giornale, teme che i magistrati non fermeranno quella che viene definita da lui operazione Craxi 2. Dall'altra parte, e c'è stato un comunicato di Berlusconi in serata, a questo punto la posta viene alzata con il tiro di dire: a questo punto al Quirinale vogliamo un esponente non di sinistra. Carmelo Lo Papa su Repubblica: il PDL ora vuole il Quirinale, rivendicarlo è un diritto, basta con i candidati di sinistra. È stata anche offerta la proroga a Napolitano, anche se più volte anche due giorni fa il capo dello Stato ha detto tema chiuso, ma chissà se è davvero chiuso, cioè quello della possibile allungamento di un qualche mese o di un anno o di qualche tempo una proroga, un nuovo mandato presidenziale per Napolitano. Quello che teme soprattutto Berlusconi, questo racconta tutti i giornali in retroscena, anche in questo di Repubblica firma Carmelo Lo Papa, è l'ascesa al Quirinale di Romano Prodi. È Romano Prodi l'uomo che secondo i giornali temono di più nel Popolo della Libertà, ma insomma anche D'Alema o Giuliano Amato, i nomi che vengono fatti di più, o anche Anna Finocchiaro, non sarebbero molto graditi da Berlusconi, che dice ora vuole puntare al Quirinale con un esponente non di centro-sinistra. Anche per Libero, pagina 7, Silvio sfila il Quirinale a Prodi, questo è il titolo. Mentre Beppe Grillo è stato esplicito: ma quale vogliono far fare la fine di Craxi? Sarebbe la tua fortuna, in qualche modo, ha detto Beppe Grillo, fare la fine di Bottino Craxi. Lui lo chiama così, Bottino Craxi, non Bettino. Beppe Grillo, che ha manifestato tutta la propria solidarietà in un post ai magistrati di Milano, e ha detto: sarebbe proprio la fortuna di Berlusconi fare la fine di Bottino Craxi in fuga sulle spiagge tunisine piene di rubi, senza la rottura di coglioni quotidiana dei suoi questuanti, senza Ghedini, Alfano, Gelmini, Biondi, Gasparri, Cicchitto, Brunetta e soprattutto D'Alema. Molto, molto ironica questa. Un paradiso terrestre, si faccia condannare al più presto senza attenuanti e prima dell'arresto si dia alla latitanza, ci guadagnerà in salute, guarirà dall'uveite e gli italiani guariranno dall'orchite che li affligge da 20 anni. Questa è la posizione di Beppe Grillo sulla vicenda politica. Oh, a proposito di vicenda politica, allora la situazione è sempre di stallo. D'altronde, lo sapete, ci sono questi tempi istituzionali, c'è il venerdì. Ci sarà l'insediamento delle Camere, del Parlamento, e poi inizieranno le consultazioni settimana prossima. Insomma, i tempi istituzionali sono questi, però qualcosa si muove, eppur si muove, si potrebbe dire, perché i tre pontieri del Partito Democratico, vale a dire i tre onorevoli Zanda, Calipari e Zoggia, che stanno incontrando, ieri hanno incontrato la prima delegazione del Movimento 5 Stelle, insomma danno spunto a qualche titolo sui giornali che parla di possibile apertura. Per esempio il Corriere della Sera con Monica Guerzoni a pagina 11, i pontieri soddisfatti, in moto il Parlamento, ma il governo è lontano, quindi il governo è ancora lontano, nel senso una possibile intesa, si parla di timide aperture, insomma quei passettini che avrebbe fatto con questo primo incontro tra responsabili del PD e responsabile del Movimento 5 Stelle, ma per un possibile intesa in Parlamento. Certo, i 5 Stelle che cosa chiedono? Chiedono la presidenza di Montecitorio. A noi spetta una Camera, così titola anche il Sole 24, il Secolo XIX, a pagina 7 con Ilario Lombardo. I 5 Stelle, a noi spetta la presidenza di Montecitorio. Tra l'altro si parla anche di, in caso andasse appunto, di Marta Grande, neo deputata del Movimento 5 Stelle, come possibile nome. Sarà nostra ospite alle 8:15, ovviamente glielo chiederemo. Anche nel retroscena il politico di Francesco Bei su Repubblica a pagina 15 viene proprio citata con foto Marta Grande come la più giovane eletta del Movimento 5 Stelle, potrebbe diventare presidente della Camera, così racconta Repubblica. E tra l'altro in questo retroscena a firma Bei spunta il piano B, è il retroscena politico più interessante del giorno, il piano B del governo istituzionale, e il Cavaliere vuole rientrare in partita. Cosa racconta Repubblica? Pagina 15 racconta questo: C'è di nuovo l'ombra di un governo del presidente a oscurare il pallido tentativo di Bersani di formare una maggioranza con i 5 Stelle. Una strada in salita, ammesso lo stesso segretario, preso a pesci in faccia ogni giorno da Beppe Grillo. E allora, se l'incarico esplorativo a Bersani dovesse sgretolarsi di fronte al muro di incomunicabilità eretto dai grillini, il piano B potrebbe essere gestito dallo stesso Napolitano, inizialmente rassegnato a lasciare al suo successore il compito di individuare un nuovo presidente del Consiglio. L'incarico invece sarebbe affidato al presidente di uno dei due rami del Parlamento, possibilmente il Senato, per dar vita a un governo istituzionale. Questo potrebbe essere il piano B, diciamo, di Napolitano. Un'intesa di governo che... siamo sempre lì, consentirebbe al centrodestra di evitare l'ascesa, cioè la salita al colle di Romano Prodi. E il nome che spunta di più, ieri è stato fotografato anche in piazza San Pietro ad assistere alla prima fumata nera del conclave, ha detto Romano Prodi: alla mia età, a 76-77 anni, quello che è, per la prima volta assisto dal vivo a una fumata. A proposito di Berlusconi, c'è anche un articolo di Repubblica interessante, ve lo segnalo, Tommaso Ciriaco a pagina 12, perché si apre, non è la prima volta per la verità, il tema della cosiddetta rischio di ineleggibilità dell'ex premier, sul quale puntano molto il Movimento 5 Stelle, perché c'è una legge, la legge 361 del 1957, che sbarra le porte delle camere a chi è referente economico di una società concessionaria di frequenze televisive. Ed ecco che, per esempio, il capogruppo al Senato del Movimento Vito Crimi dice: in questo caso noi voteremmo per la ineleggibilità di Berlusconi, che è concessionario di servizio pubblico. Insomma, diciamo, c'è anche questa grana sul tavolo della giunta delle ineleggibilità del Senato, la eleggibilità o meno di Silvio Berlusconi. Allora, oggi dal Sole 24 Ore in prima pagina viene lanciato un nuovo allarme, il secondo giorno consecutivo, dopo la questione dei soldi che spettano alle imprese fornitrici della pubblica amministrazione che non arrivano, e l'appello del presidente di Confindustria Squinzi. Oggi il credito è una stretta che costa 37 miliardi. Finanziamenti ridotti del 7% nel settore manifatturiero, si arriva fino al 23% di finanziamenti ridotti nella chimica. Io lo so, se state ascoltando, siete imprenditori, sapete di cosa si tratta quando andate nelle banche e poi vi dicono no. Non c'è la possibilità di aprire linee di credito. Ieri c'è stato l'appello del governatore di Banca Italia Visco: banche, sostenete le imprese innovative, racconta Rossella Bocciarelli a pagina 5 del Sole. Le banche non devono essere solo attente alle garanzie reali delle imprese, ma anche al tipo di prospettive che hanno davanti. Intervenendo a Venezia al convegno di Alma Laura sulla condizione occupazionale dei laureati, il governatore di Banca Italia ha ricordato alle aziende di credito che hanno una responsabilità nel sostenere le imprese di fronte alle sfide del cambiamento, soprattutto quelle imprese che sono innovative. E appunto all'economia 37 miliardi in meno, questa è la stima che trovate a firma Luca Orlando, sempre sul Sole 24 Ore a pagina 3. Si riducono i prestiti, crescono anche le sofferenze, più 18%, ora quota 96 miliardi, settore per settore. Ecco i prestiti al manifatturiero, all'alimentare meno 3,4%, ma si arriva fino alla chimica e alla farmaceutica al meno 22,7% di prestiti in miliardi di euro, da 22,5 a 17,4 miliardi di euro. Insomma, tutti i settori sono in sofferenza: il legno arredo, il tessile, gomma plastica, metallurgia elettronica, l'immobiliare, solo il trasporto ha un più 18,4% di prestiti, e anche energia elettrica e gas più 4,8%. Per il resto una stretta creditizia che costa all'economia 37 miliardi. Vabbè, avete assistito per la cronaca alla prima fumata nera, quella del conclave. Oggi sono previste altre 4 votazioni, come abbiamo sentito anche dalla nostra inviata Katia Caramelli, 2 al mattino, 2 al pomeriggio. E non è escluso, almeno questo secondo il vaticanista Carlo Marroni, a pagina 11 del Sole 24 Ore, che proprio oggi possa esserci una fumata bianca, quindi l'elezione del nuovo Papa. In questo caso il favorito è il Cardinal Scola, arcivescovo di Milano, ma anche il cardinale Ollier viene dato in netta crescita. Carlo Marroni a pagina 11, c'è chi le chiama le primarie del conclave, il primo voto dentro la Sistina serve sempre per verificare le forze in campo, usare il responso per sondare il terreno e avviare le votazioni vere del giorno dopo, cioè di oggi. E in questo caso il cardinale Scola si conferma, scrive Marroni, quello che in prima battuta riscuote maggiori consensi, un pacchetto di oltre 30 voti, stimato soprattutto pescato in Europa tra i ratzingeriani storici, come in testa l'austriaco Christoph Schönborn, anche lui decisamente papabile, ma in seconda battuta, così come l'ungherese Peter Erdo. Scola come prima opzione, la cui forza sarà testata questa mattina alla seconda e terza votazione, e scrive Marroni, se i consensi saliranno in misura sensibile, allora è possibile che si possa andare rapidamente verso una fumata bianca già in giornata. In realtà però c'è anche ovviamente l'incertezza che regna sovrana quando si chiudono le porte, c'è il fuori tutti e il conclave si chiude e i cardinali decidono. Il Wall Street Journal si concentra proprio, come racconta il Corriere della Sera, sulla figura di Scola, che viene considerato quindi tra i più papabili, ma anche troppo legato alla politica, troppo legato anche a Comunione e Liberazione. In America forse tifano ovviamente per Timothy Dolan o il cardinale O'Malley come due possibili papi americani. Mentre Ratzinger, racconta a tutti i giornali, ha assistito in TV alla prima fumata. Ratzinger segue il conclave in TV, racconta il Corriere della Sera con Maria Antonietta Calabrò, pagina 6, messa e letture. Monsignor Georg lascia Castel Gandolfo per la Sistina e racconta il Corriere della Sera, c'era anche Ratzinger a sentire e vedere quell'ovazione, perché il Papa Emerito ha seguito tutto in diretta TV. Con l'appuntamento poi delle 20, vale a dire del TG1. Noi parleremo alle 20, alle 8.30 invece della vicenda dei Marò. Ci sono ancora tanti articoli con l'India che alza la voce, ha convocato il nostro ambasciatore a dire i Marò devono tornare in India. Voglio regalarvi però questa notizia di cronaca prima di chiudere, che proviene da Londra, dalla Gran Bretagna, dove un ex ministro, Chris Huhne, liberal democratico, in passato aveva preso delle multe e aveva pensato bene di addossare la colpa alla moglie, cioè il classico trucchetto in accordo con la moglie, diciamo che eri tu alla guida, no? Come si fa anche in Italia. Solo che poi cosa è successo? È successo che il ministro, l'ex ministro Huhne, ha tradito la moglie, ha lasciato la moglie, allora la moglie si è vendicata, ha detto mi ha costretto a dire che avevo preso delle multe al suo posto. Risultato: Londra, l'ex ministro in carcere per una multa. Condannati a 8 mesi sia lui sia la ex moglie, avevano dichiarato che alla guida c'era lei in una serie di multe. L'accusa intralcio alla giustizia, forse avranno la condizionale, ma forse 4 mesi se li dovranno fare, racconta il giornale a pagina 19. Do you understand Italy? Quello che avviene in Gran Bretagna, ex ministro per qualche multa nella quale ha mentito, 8 mesi di condanna, forse 4 mesi li farà al gabbio. Do you understand come funziona? Vabbè, siamo al momento della, che tutti attendete, lo so, della lettura della Gazzetta dello Sport. La prima pagina della Gazzetta dello Sport, io l'ho già fatto un po' al nostro Bar in Onda, ma oggi la Gazzetta dello Sport ha questo titolo che fa questo suono, che inviterei a fare a tutti. La Gazzetta dello Sport, ecco, oggi è questa qui. "24 Mattino, la politica nel tunnel". Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan, quando sono le 8:17. Allora, come sapete, la politica nel tunnel, si troverà un modo per formare un nuovo governo? Questo è il tema nella settimana in cui si insediano le Camere, venerdì. Noi ne vogliamo parlare con un esponente del Movimento 5 Stelle che è stata eletta alla Camera. Si tratta dell'onorevole Marta Grande. Onorevole, sono abituato così, onorevole, a chiamarla. Buongiorno, non si preoccupi, la nostra la nostra preferenza verso il titolo di cittadino. Cittadina, sì. Cittadina Marta Grande. Allora, tra l'altro, viene data come, visto che utilizziamo un altro evento ben di altra portata, papabile presidente della Camera. Cioè, intanto, voi formalmente chiedereste e chiedete che una Camera venga data come presidenza al Movimento? Guardi, noi proporremo dei nomi, ci riuniremo in questi giorni, poco prima ovviamente della seduta di venerdì, per proprio discutere i nominativi che verranno fatti da parte del Movimento e li proporremo. Se poi questi nomi verranno accettati, condivisi, sostenuti anche dagli altri partiti, andrà bene. Ovviamente noi sosteniamo dei candidati a 5 Stelle. Sì, certo. Ma come viene fatta la scelta? Cioè, com'è il modo in cui sceglierete i nomi? Per alzata di mano? A maggioranza? Stiamo proprio discutendo in questi momenti di questa scelta, di come di fatto eleggere questi rappresentanti, che ovviamente, se eletti, avranno un ruolo fondamentale a livello istituzionale. Quindi proprio in queste ore dovremo incontrarci e decidere prima di tutto le modalità e poi dei nomi da proporre. Ancora li stiamo lavorando. Ecco, però le richiedo, cioè, secondo lei il principio è giusto, visto anche che siete stati il primo partito alla Camera, è giusto che una Camera spetti a voi? Solitamente una Camera aspetta al primo partito d'opposizione, anche nel nostro caso potrebbe aspettare a noi. Vediamo quali saranno i risultati per ora. Adesso noi, ripeto, proporremo i nostri nomi, se accettati ovviamente... Accetterete ben volentieri, è chiaro. Tra l'altro, ecco, si parla di lei, vogliamo dire, Marta Grande, 25 anni, mi pare di aver capito, una laurea presa in Alabama, un master preso in Italia, una nuova laurea credo in arrivo. Sì, manca semplicemente la discussione della tesi, quindi doveva essere a marzo, ma ovviamente è stata un attimo slittata per motivi più importanti. Si parla di lei come la possibile anche nuova Irene Pivetti, visto che vi associano anche per l'età. Sì, io l'ho letto sui giornali esattamente come tutti gli altri cittadini e come tutti gli altri eletti, di fatto. L'ho letto sul giornale, non ci sono conferme né nulla. Noi, appunto, le ripeto, ci incontreremo e discuteremo tutti insieme sul nominativo, sulla persona. Quindi diciamo che finora sono semplicemente rumors. Sono semplicemente voci di corridoio, non c'è nessuna ufficialità ovviamente, infatti non è stata poi commentata dal gruppo, non ha una valenza al momento rilevante, sì. Ripeto, decideremo tutti insieme. In questi giorni. Intanto è già entrata in Parlamento, che effetto le ha fatto? Perché sai, i giornali scrivono, sembra arrivare i marziani, no? Persone che con il Parlamento finora non avevano avuto niente a che fare. Che effetto le ha fatto entrare in Parlamento? Ma ovviamente è stata una sensazione molto forte, siamo tutti contenti e meravigliati della bellezza e dell'importanza del palazzo, però allo stesso tempo ci rendiamo conto che non possiamo farci abbagliare dal tappeto di velluto, dalla poltrona di pelle, perché abbiamo un ruolo da portare avanti che è molto importante. E d'altro canto la nostra sensazione iniziale è, penso, condivisa anche da tutti gli altri neoeletti, nonché dai grandi politici che sono lì da molto, allora quando a loro tempo sono entrati per la prima volta. Che effetto le fanno? Che effetto le fanno? Le fanno l'effetto un po' dei dinosauri della politica? Cioè le danno fastidio? No, fastidio no, sono dei politici, sono delle persone che sono state appunto legittimate dal voto popolare, in ogni caso non sono delle persone che sono lì senza nessun titolo. Si può discutere sulla legge elettorale, quelle persone comunque hanno fatto parte delle istituzioni per molti anni, certo, e una critica magari, che un'osservazione più che altro potrebbe essere mossa in questo senso, è che c'è bisogno di rinnovamento, ma fortunatamente queste elezioni hanno fatto sì che un grande numero di giovani, non solo nel nostro partito, nel nostro movimento, insomma, ma anche in altri partiti, appunto, abbia svecchiato il Parlamento e portato un'onda di novità e freschezza, diciamo una fascia d'età che fino a questo momento non era così rappresentata. Questo senza dubbio. Senta, il punto focale è quello che per far partire un eventuale nuovo governo ci vuole un voto di fiducia. E Beppe Grillo, il Movimento, ha detto chiaramente: noi non voteremo mai una fiducia a nessuno. Questo è il punto. Lei ribadisce, cioè il Movimento 5 Stelle non deve votare fiducia a nessuno? La linea del Movimento è quella di non votare la fiducia e questo non è diciamo, un'idea dell'ultimo minuto. Tutta la campagna elettorale è stata impostata su questo su quest'idea. Ma voi non sentite il senso di responsabilità, come si dice, al quale vi richiamano molti a dire: ma così si rischia di non far partire un governo e cade tutto, insomma, bisogna rifare tutto? Certamente il senso di responsabilità c'è e si sente molto forte. E questa è la linea del Movimento, la linea che è stata scelta, quindi noi rimaniamo di questa opinione. Gli altri partiti si gestiranno la situazione come vorrà, non che questo sia una, diciamo, un scaricare la responsabilità su di loro, solo che questa è la linea del Movimento. Sì. E tutti si atterranno? È stata votata anche in base, diciamo, il Movimento è stato votato anche in base a questa linea, chiaro. Secondo lei tutti si atterranno nel Movimento? Perché sa, anche Beppe Grillo ha detto: temo che un 15% di, tra virgolette, scilipoti, viene definito, no, di coloro che possono cambiare idea ci possano essere. Secondo lei ci sarà invece una compatta e uniforme a tenersi a questa disposizione? Penso di sì, visto le riunioni che abbiamo fatto, mi sento di dire di sì. Poi non so, ovviamente il momento del voto è sempre un momento delicato, quindi non le saprei dire con certezza, però ripeto, secondo me ci sarà un gruppo compatto. E allora mi scusi, questo dialogo che c'è, cioè lei come vede questa idea del Partito Democratico che ha nominato i tre pontieri, no, i cosiddetti deputati, e ci sono stati anche degli incontri? Lei ha partecipato ieri a questo incontro? No. Cioè come la vede questa cosa? Che è tutta fuffa? Si sta parlando del nulla? No, in realtà questo poi è la parte costruttiva. È quello che di fatto il Movimento vuole, la condivisione di temi, lavorare per quei temi che sono stati condivisi, che sono condivisi dai vari programmi. Il senso, noi abbiamo sempre detto che il Movimento porterà avanti le idee indipendentemente dal gruppo che le proporrà, se le idee sono in linea con il programma del Movimento. Quindi questo è proprio l'esempio di quello che cercavamo di dire in campagna elettorale, che abbiamo ripetuto. Cioè, sembra un po' una contraddizione. Cioè, voi dite: voi, noi fiducia non la votiamo, che vuol dire non dare fiducia a nessun governo. Se però dovesse nascere un governo, appoggiamo quelle idee che sono in linea con il nostro programma. Cioè, non è una contraddizione, voglio dire. Noi siamo stati legittimati dal 25% di elettori che ci hanno mandato in Parlamento. Cercheremo di portare avanti, ovviamente proprio per questo senso di responsabilità, noi cercheremo di portare avanti le idee del Movimento e appunto quelle idee che possono migliorare la situazione del Paese, perché non bisogna mai dimenticare qual è il fine della nostra partecipazione alla vita politica, quella di migliorare questo Paese in una situazione così complessa e delicata. Quindi è ovvio che se si formerà un governo, il Movimento sarà lì in prima linea a contribuire e a proporre per le cose attenenti, a distruggere. Abbiamo delle proposte da fare, abbiamo un programma, abbiamo un'agenda a 5 stelle con 20 punti programmatici, quindi non andremo lì a dire di no a fare ostruzionismo. Sicuramente ci sarà bisogno di dialogo e sicuramente ci sarà bisogno di lavorare per il Paese. Senta, Marta Grande, sa che il Presidente della Camera prende sui 15.000 euro al mese, dovesse capitare, glielo dico. quanto sarebbe giusto secondo lei per il Presidente della Camera? Non ho idea, non so quantificare. non saprei quantificare un numero. Cioè, voi quanto vi tenete voi dello stipendio? Noi, come abbiamo accettato prima di candidarci, sono 5.000 euro lorde. 5.000 lorde. E il resto che succede? Perché sa che lo stipendio del parlamentare non è rinunciabile, cioè non può rinunciare al suo stipendio, lo deve prendere, sì, per forza. Che il ne resto, fa? Ovviamente, abbiamo chiesto come poter gestire questi fondi. E che vi hanno detto? Non possono essere dati indietro o trattenuti dallo Stato, ovviamente. Appunto. Quindi probabilmente stiamo vagliando varie ipotesi. C'è la possibilità di creare un fondo esattamente come è stato fatto in Sicilia, ovvero creare un fondo, poi in Sicilia è stato destinato alle piccole e medie imprese siciliane, oppure la possibilità di fare delle donazioni. Stiamo valutando varie opzioni per cercare quelle più trasparenti possibili, comunque per ridistribuire questi fondi. Tenere 5.000 lordi e il resto utilizzarli in altro modo. Ha letto oggi già i giornali, è venuta fuori la vicenda, per la verità, di ieri, che in realtà c'è uno statuto del movimento depositato da un notaio, anche perché sennò non si poteva correre alle elezioni, e in questo statuto presidente Beppe Grillo e vicepresidente è suo nipote. Insomma, già i giornali parlano di altro movimento fatto tutto in famiglia. Lei come l'ha presa? Ma il punto, vede, è questo. Quello che cerchiamo di ribadire noi è che adesso noi vorremmo focalizzare l'attenzione principalmente sulle tematiche politiche e sul lavoro che andremo a fare, piuttosto che su questi però questa è una notizia, sicuramente, no? Lei lo sapeva di questa? Letto sui giornali esattamente come la presidenza della Camera. L'ha letto sui giornali, e voglio dire, al di là della questione politica, certo, farete, l'avrà suscitato una qualche sensazione, cioè non le ha fatto né caldo né freddo, oppure? Ma guardi, noi le decisioni le prendiamo comunemente, le nostre riunioni sono effettivamente trasparenti e democratiche, quindi non vedo nessun tipo di influenza dall'alto che molti vogliono vedere, quindi per noi non le importa, insomma, c'è una problematica di questa natura. Non le importa questa cosa, no. Dello statuto non le frega. Noi le ripeto, noi siamo adesso focalizzati sul lavoro, stiamo cercando di studiare, di capire. Sì, no, il nostro obiettivo è un altro adesso. L'ultima domanda è questa, Marta Grande, ma si dice che coi giornalisti voi abbiate un po' un rapporto, un po' un rapporto difficile, insomma, è stata inseguita anche lei, un po' braccata come tutti a strapparle una dichiarazione, dica il nome, almeno il nome, no? Perché ce l'avete? Cosa fanno i giornalisti di così male? No, guardi, dica quello che vuole. Non è così. Noi capiamo che c'è un comprensibile interesse, una curiosità da parte dei cittadini e dei media nei confronti del movimento, perché non siamo dei personaggi conosciuti e quindi è normale che ci sia un interesse. E allo stesso tempo però l'attenzione che ci è stata rivolta è molto superiore alle nostre aspettative, nel senso che molte persone si sono trovati anche fotografi e giornalisti sotto casa. Sì. E la nostra, per quanto l'attenzione sia su di noi, noi vogliamo, appunto, le ripeto quello che ho detto prima, non parlare dei programmi, l'elemento focale. Ho capito, ma difficilmente parlate, quindi uno non può neanche farvi oggi è qui a parlare, eccetera. Però sfuggite un po' alle domande dei giornalisti, quindi si fa un po' fatica. Quando ci vediamo in riunione e troviamo molti giornalisti al di fuori magari dell'hotel, è difficile riuscire a gestire, anche per una persona che comunque è comprensibile, non ha mai fatto questo tipo di dichiarazione, è difficile riuscire a gestire molti giornalisti. Il che non significa che noi abbiamo qualcosa contro di loro, nel senso che ci sono dei giornalisti indubbiamente bravi anche nell'ordine dei giornalisti italiani, non solamente quelli stranieri. Addirittura anche tra di noi. Vabbè, insomma, state imparando a studiare anche questo aspetto. Sì, ma in realtà il movimento comunque parte da un'informazione di tipo, che passa via internet, quindi noi prediligiamo quel canale. Che non significa ovviamente che non parleremo, noi però continuiamo a dire una cosa fondamentale, che la linea del movimento viene divulgata, diciamo, dai portavoce e che quindi qualsiasi altra persona esprime un'opinione personale, ovviamente questo è da ricordare. Questo sicuramente. E questo è importante, spesso abbiamo visto anche in varie trasmissioni parlare degli attivisti che è legittimissimo, perché ovviamente ogni però persona non esprimono la linea del movimento. Necessariamente la linea del movimento, questo è importante ricordarlo. Questo sì. Intanto io la ringrazio, Marta Grande, neoeletta alla Camera, in bocca al lupo. Ovviamente venerdì c'è l'insediamento delle Camere, e in bocca al lupo per questa nuova avventura. Buona giornata, ovviamente. 24 mattino, 8:38 minuti, la vicenda dei Marò italiani. Io non me la voglio cavare con una battuta, ma insomma gli hanno detto da Nuova Delhi: tornate in India e quelli fanno gli indiani. E la Farnesina dice: li tratterremo qui. Come la vedete? L'Italia perde la faccia, l'Italia non mantiene l'onore, la parola data del ritorno per questi due fucilieri accusati di aver ucciso due pescatori in India? Oppure l'Italia, visto che dall'altra parte ci sono state delle violazioni del diritto internazionale, ritiene il nostro paese, allora risponde dicendo: allora dobbiamo gestirla in altro modo, intanto li teniamo qui. Voglio salutare Giuliana Sgrena, inviata del Manifesto. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, eccoci qua, Giuliana Sgrena. Voglio salutare anche il professor Arduino Paniccia, che insegna gli studi strategici all'Università di Trieste. Buongiorno, professor Paniccia, eccoci. Buongiorno a lei, ascoltatori. Allora, Giuliana Sgrena, che fa l'Italia? Perde la faccia, secondo lei? Oppure insomma, io dico un'altra battuta: a brigante e mezzo, no? Visto che anche l'India non si è comportata benissimo. No, la questione è che, come si era intuito un po' dall'inizio, ma all'inizio non era molto chiaro, dietro questa questione dei Marò ci sono delle questioni molto più ampie. Allora, prima di tutto, l'Italia evidentemente di fronte all'opinione pubblica ha fatto una furbata, no, in modo di risolvere le questioni all'italiana. Però purtroppo non si tratta solo di una furbata dell'Italia, ma anche l'India aveva degli interessi dietro alla presa dei Marò, diciamo, all'accusa dei Marò per quella sparatoria contro l'uccisione di due pescatori indiani. La questione è che adesso si rivela e emerge in tutta la sua complessità questa questione, che non è tanto una questione di l'arresto di due Marò in India, questione di giurisdizione, sì, ma quello che, e cosa ci sarebbe dietro? Dell'Italia, eccetera. La questione è che tutto questo è precipitato nel pantano delle tangenti della Finmeccanica. Ah, cioè lei dice la questione sono la Finmeccanica, assolutamente. Sì. Ma in base a che cosa? Cioè, però è una supposizione, cioè non è che è concretizzata da questioni sotto che sono. No, è concretizzata da tutta una serie di incidenti e di coincidenze che ormai non sono più solo coincidenze. La cosa è stata denunciata anche da una televisione indiana, la CNN indiana, dove appunto si rivelano tutte queste coincidenze e ci sono delle date ben precise che rivelano il succedersi di avvenimenti per cui c'è continuamente una risposta da parte dell'India o dell'Italia a seconda dei casi, e che coincidono con le indagini sulle tangenti della Finmeccanica per la vendita di 12 elicotteri Augusta alla una vicenda raccontata dai giornali che riguarda effettivamente Finmeccanica, l'India, e che secondo lei appunto si intreccia con questa. Io però vorrei intanto chiedere una cosa al professor Paniccia dal punto di vista, perché l'ambasciatore italiano a New Delhi è stato convocato, il governo indiano è anche molto arrabbiato, dice insomma bisogna fare in modo che ce li restituiate questi Marò, perché dobbiamo giudicarli qui in India in base alla giurisdizione indiana. Allora le due domande sono: l'Italia ha fatto bene in punta di diritto? Cioè quali sono in punta di diritto gli elementi per tenerli qui? E poi le chiedo se invece diplomaticamente, quindi da un punto di vista di un altro profilo, ha fatto bene, cioè la stessa domanda sui due punti. Guardi, naturalmente la questione è molto complessa, tuttavia io credo che l'India abbia apertamente contravvenuto alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego dell'82, e poi è entrata in vigore nel 1994, sottoscritta da 2/3 dei paesi aderenti all'ONU, la quale parla molto chiaro, e qui mi sembra non vi possono essere delle grandi confusioni, parla di una zona contigua di 12 miglia e parla di acque territoriali di altre 12 miglia. Siamo a 24 miglia e al di là di questo sono acque internazionali. Mm. Il fatto che vi sia una zona economica di interesse non ha nulla a che vedere con l'incidente che è successo con l'Olexi. Quindi l'incidente, quindi la zona economica non si estende, certo, in questo caso. Quindi dice, intanto il trattato è chiaro, dopo le 24 miglia siamo in acque internazionali. Quindi l'incidente è avvenuto in acque internazionali e quindi vale il diritto non della dell'India. E ecco, quindi secondo la convenzione, sì, di Montego e le altre convenzioni, è la bandiera che batte la nave che avrà giurisdizione su quello che è successo. La bandiera è italiana, i marinai sono italiani, mm, e gli indiani non hanno nessuna giurisdizione su questo. Mm. Passando quindi al secondo punto, diciamo che gli indiani sono partiti con un inganno. Hanno fatto rientrare Alexi e le altre navi invece non sono rientrate, erano 5 che erano lì in zona, sì, di cui una che, come sappiamo, era praticamente identica alla Lexi, e sono rientrata alla Lexi perché credo che nessuno sia così folle da rientrare e con l'inganno, perché hanno detto che avevano trovato i pirati e quindi dovevano riconoscere, sì, quindi ha fatto rientrare con un inganno, quindi gli hanno, parte con arrestati, un inganno li internazionale. Ma senta, secondo lei è accertato poi che siano stati i due fucilieri a uccidere questi marinai, questi pescatori, no, indiani? L'altra cosa che non mi convince è tutto l'insieme confuso e pressapochista delle dichiarazioni, delle analisi e di quanto è stato fatto dagli indiani. Questo non significa, naturalmente io non sono né un medico legale né un perito balistico, mi occupo di strategia, sì, e non parto da posizioni preconcette, ma tutto quello che ho letto fin dall'inizio mi è sembrato molto oscuro, pressapochista, è fatto veramente in un modo con il quale non si può accusare della gente anche sulla responsabilità. Qui però la questione è diplomatica, vorrei ripartire tra un minuto dopo le informazioni, sì, sul traffico. Siamo con il professor Arduino Panice e con Giuliana Sgrena, inviata del Manifesto, perché è una cosa che ha fatto fastidio a molti, immagino anche a Giuliana Sgrena, un pochino anche a me effettivamente, il fatto che questi due marò comunque siano stati accolti nelle due licenze che hanno ottenuto. Beh, in maniera, come dire, abbastanza trionfale, in fondo, per carità, sono stati loro, non sono stati loro, non si sa, però l'accusa è abbastanza grave, è grave, quella di avere sparato e di avere ucciso due pescatori indiani. Allora, anche questo potrebbe essere un elemento che ha infastidito l'India tra un attimo. Eccoci qua, le 8:46 minuti. Allora, Giuliana Sgrena, le ha dato fastidio vedere come sono stati accolti in Italia i marò quando sono arrivati nelle due licenze, l'ultima delle quali pare sia definitiva, nel senso che rimarranno da noi? Sì, però innanzitutto vorrei precisare una cosa, che io non mi sono mai addentrata nell'inchiesta perché non penso sia mio compito stabilire se sono innocenti o responsabili dell'uccisione. Quello che io volevo affermare fin dall'inizio è che i militari in giro per il mondo non possono più continuare ad avere l'impunità e le vittime restare senza giustizia. Dopodiché, se i marò sono responsabili o meno, io spero che possano dimostrare di non essere responsabili. Ma perché, adesso, perché dice impunità? Cioè, nel caso ci dovrebbe essere un processo in Italia. Nel caso, dunque, la questione della giurisdizione, quando si fa valere la legge della bandiera piuttosto che dello zaino, che io ritengo che siano più che sono consuetudine, non sono neanche leggi, sono delle questioni che vengono fatte valere in un modo o nell'altro a seconda di chi ci si trova davanti. L'Italia non ha mai fatto valere la propria giurisdizione quando si aveva di fronte gli Stati Uniti. Ricordo il caso Calipari, ma ci sono anche altri casi del Cermis, eccetera, dove l'Italia avrebbe avuto tutto il diritto di giurisdizione, invece ha rinunciato a questa giurisdizione. Sì. In questo caso invece fa valere la giurisdizione, ma io dico se il cioè debole fatto... coi forti, caso Calipari che ricordiamo, insomma, l'ha vista anche protagonista lei in prima persona, dice l'Italia è debole coi forti e forte coi deboli? Io sì, sono convinta di questo, ed è questo stato la mia il fatto che io abbia scritto contro questo atteggiamento dell'Italia, non era tanto sulla responsabilità o meno dei Marò. Io però vorrei che i due pescatori, anche se sono semplici pescatori indiani, abbiano giustizia. Se poi l'Italia ha commesso questo in acque internazionali, commesso o non commesso questo in acque internazionali, a parte le convenzioni di cui si parlava prima, non sono per esempio riconosciute dagli Stati Uniti, anche se sono riconosciute da 60 paesi, ma mancano gli Stati Uniti, mi sembra un fatto abbastanza significativo. Comunque, a parte questo, se la nave realmente si trovava in acque internazionali, è difficile che si faccia beccare con l'inganno e rientrare nel porto di Cacce. Evidentemente c'era dietro qualche altro ricatto più forte. Questo non si sa, però professor Paniccia, lei segue quando Giuliana Sgrena dice siamo un po'... rientra nella questione appunto diplomatica, di rapporti, quando si trattava di fare la voce grossa con gli Stati Uniti, nei casi che ha citato non è stata fatta. Invece ma guardi, io le devo parlare proprio facile. Di un caso indiano, la fregata Tabar indiana, una nave da guerra indiana, affondò il peschereccio thailandese in un caso rimasto storico, dice che era stato un errore e che loro stavano difendendo gli interessi dell'India. Quindi ognuno è forte e debole a seconda dei casi, compresi gli indiani. Quindi io non ne vorrei fare queste questioni, come dire, certamente forse poteva essere tenuto un profilo più aderente al fatto che comunque sono morti i pescatori indiani, dobbiamo ancora capire come, perché vede, io mi sono riletto molto bene. Non essendo giornalista, non essendo un investigatore, però sapendo che poi devo dire delle cose davanti a milioni di ascoltatori, mi sono riletto molto bene la testimonianza del signor Freddy Bosco, proprietario del famoso peschereccio poi affondato, cancellando, diciamo così, le tracce di quello che poteva essere una perizia da parte nostra che non è mai stata autorizzata. Le dichiarazioni di Freddy Bosco rasentano quasi l'incredibile su quello che è successo quel giorno. Allora, noi non siamo convinti quindi che tutto quello che ci hanno raccontato gli indiani sia vero. Anzi, no, ma questo, però lei, professore, poco convinto. Certo, però lei, professore, la sposta sul tema appunto dell'inchiesta, cioè della responsabilità. No, io posso parlare con dell'evento. Lei anche del diplomatico. Le ripeto, potevamo tenere sicuramente un profilo più basso, data l'incertezza, però evidentemente noi non sappiamo tutto, non eravamo lì, ed è evidente che questo è stato motivato non solo comunque dall'inganno iniziale, che non dimenticavo è stato fatto dagli indiani, ma anche dal fatto che vi sono chiaramente tra coloro che sono stati lì, e quindi evidentemente anche tra i marinai e tra i loro, come dire, superiori, delle certezze in qualche modo. I nostri marinai non sono così colpevoli. C'è un'impunità, le chiedo, come dice Giuliana Sgrena, un po' un'impunità dei militari in giro per il mondo. Ha dichiarato, ha voluto queste missioni. Sì. Noi stiamo parlando e dimentichiamo i 108 prigionieri, i torturati, coloro a cui sono stati chiesti i riscatti, i malmenati, coloro che sono stati portati dai a terra, pirati, marinai dai innocenti. Pirati, abbiamo dai dimenticato pirati. Tutto questo, e quindi a questo punto dietro c'è una vicenda per la quale si è poi intervenuto con i militari a bordo, capisce? Non è che le cose sono... No, ma è chiaro, visto che c'è il problema della pirateria, l'ONU ha autorizzato di portare del personale militare anche su navi non militari, come era la Lezze, per difesa. Questo è il punto, Giuliana Sgrena. Poi è chiaro che se l'ONU autorizza questa cosa, perché, come sa, ci sono problemi di pirateria a livello internazionale, con anche persone uccise... torturate, prese prigioniere, esatto, riscatti. Questo poi... comporta una difesa che a volte può anche comportare alcuni incidenti. Giuliana Sgrena, lei non... Sì, ma non si tratta solo di pirati. Se noi consideriamo anche tutte le altre persone che sono impunemente torturate dai militari che vanno a fare missioni militari all'estero, il problema si allarga, e indubbiamente ci vorrebbe un'autorità in grado di controllare questi atteggiamenti dei militari. Mi scusi, dottoressa Sgrena, lei sta paragonando le missioni militari antipirateria dell'ONU con i pirati che torturano. Questi militari, sono sulle navi in base alla legge la russa, che ha permesso che i militari andassero sulle navi commerciali. Sì. Ora, per me è già discutibile che dei militari vengano... Però c'è una legge, l'ONU ha legittimato queste cose. Sì, ha legittimato queste cose, ma non ha legittimato di sparare su chiunque si trovi davanti alla nave e possa essere... No, tirato ma non credo, allora non lì c'è una questione di regole di ingaggio. Chi comanda il militare in quel momento? È l'esercito oppure il comandante della nave? Paniccia, dal punto di ci sarà una legge che stabilisce queste cose, si stabilisce infatti, dal punto di vista. Il discorso è che il comandante del gruppo che era a bordo era il comandante poi dei Marò, sì, che è stato anche preso. Però abbiamo visto però chi è responsabile? Cioè, effettivamente la domanda non è sbagliata. Cioè, chi è responsabile del fatto che aprano il fuoco dei militari su una nave commerciale? Se poi sbagliano, per dire, chi è il responsabile? No, il comandante della nave, che è un civile, o i militari che sono? Alla fine abbiamo visto che poi ha diretto le operazioni. Purtroppo, perché questo ha creato un grave conflitto, il comandante della nave che è rientrato nel porto indiano, quindi facendo un'operazione che dimostrava che comunque le operazioni erano sotto controllo generale di un comandante che era un civile, quindi non è che ci fosse questo schieramento bellico così feroce e così granitico se poi la nave è rientrata nel porto indiano agli ordini del comandante civile, perché sì, rientrare nel porto indiano è stato un atto deciso dal comandante civile. Sì, certo, quindi, hanno detto venite qui che dovete riconoscere i pirati, li hanno tirati un po' con l'inganno e loro ci sono cascati, ecco, insomma, e poi è nata così. Fatemi sentire un ascoltatore, Vincenzo da Napoli, che ci ha chiamato. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ospiti. Dite. Io volevo dire semplicemente questo, partendo un po' dalla mia esperienza di sottufficiale di Marina, poi diventato avvocato. Io penso che l'India abbia contravvenuto a quelle che sono le norme internazionali e che per una volta l'Italia abbia pensato, insomma, a salvaguardare i suoi militari all'estero. L'unica cosa che non mi piace è l'escamotage per recuperare la giurisdizione italiana. Quella è l'unica cosa che mi lascia. Perché escamotage? Un perché dice escamotage? E perché, diciamo, una dichiarazione con cui i militari rientravano con l'impegno di poi tornare. Rientrare. Cioè. Ma certo, ma lì voglio dire, Vincenzo, è un po'. Io ho fatto la battuta brigante e mezzo, cioè è un po' il gioco della diplomazia, o no? Non crede, Vincenzo? Cioè, come avrebbero mai potuto farli tornare in Italia? Se non questo barando un pochettino, altrimenti rimanevano lì. Comunque io con lei concludo la trasmissione e vi ringrazio davvero, Giuliana Sgrena, inviata del Manifesto, e il professor Arduino Paniccia, che sono stati con noi, ricordo insegna studi strategici all'Università di Trieste. Da tutti Miriam Lucchetti, Elisabetta Fuscone, Alessandro Longoni, Valentina Magri, dal nostro alpino Peter Bescapè in regia, vi diamo l'appuntamento a quando? A domani alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.